Allora, dai, facciamo prof. Poi iniziamo. Allora, buongiorno a tutti. Cominciamo, il professor Canavero sta arrivando, per cui si inserirà al volo durante. Dunque, siamo arrivati alla penultima lezione del nostro laboratorio e diciamo che se l'ultima lezione sarà un po' un momento di sintesi, un momento finale per voi che avete partecipato con le relazioni di alcuni studenti, un po' insomma una cosa breve per tirare le fila, oggi la lezione sarà più di tipo metodologico e sarà una lezione più anche abbastanza conclusiva di quello che è stato il percorso che abbiamo affrontato, perché se dall'inizio abbiamo cercato di sviscerare, di spezzettare quello che era l'argomento che abbiamo scelto per il laboratorio, cioè la strategia della tensione, partendo dalla strage di Piazza Fontana, quello di oggi sarà più appunto un discorso legato al lavoro che lo storico deve affrontare per produrre una storiografia adeguata con un impianto metodologico serio di questi argomenti. Io non mi dilungo eccessivamente su, perché poi lo faranno i nostri relatori che parleranno nel merito di questa cosa. Mi soffermo solamente su un punto. La strategia della tensione è uno di quegli argomenti che contiene al suo interno tutte le sfaccettature che uno storico contemporaneista deve affrontare. Dal problema delle fonti, molteplici, diverse e complicate, al problema della storiografia, delle categorie interpretative e via dicendo. Per cui, oltre ad averlo scelto per l'occasione del 40° anniversario della strage di Piazza Fontana, l'abbiamo scelto anche perché, essendo studenti di storia, per noi è molto importante riflettere su queste tematiche che ancora oggi presentano grossi problemi per gli storici di storia contemporanea. Mi fermo qui, a questo punto, essendo arrivato il professor Canavero, cedo a lui la parola per il discorso introduttivo e a seguire il professor Sacco e il professor Giannulli. Io siamo d'accordo con i nostri relatori su interventi di 15-20 minuti per favorire poi anche un dibattito tra loro e ovviamente le vostre domande, per cui come sempre siate pronti e siate vigili. Bene, buongiorno, innanzitutto per il ritardo, ma a un certo punto non ho più guardato l'orologio, pensavo che fosse più presto, quindi sono arrivato adesso. Allora, il mio compito qui è quello di dire qualche parola introduttiva sul problema della metodologia. Poi i miei due colleghi, che sono espertissimi sull'argomento oggetto di questo laboratorio, parleranno nello specifico. Io devo solo introdurre il problema della metodologia, o meglio dell'uso delle fonti, perché questo è uno degli argomenti su cui cadono molto spesso tutti coloro che affrontano la storia, magari scrivono libri che ritengono di storia senza avere una adeguata preparazione metodologica. In certi errori cadono anche gli storici, come dire, professionisti, quelli che hanno avuto un curriculum di studi particolare. Qualche anno fa, per la fretta di pubblicare sui giornali, più ancora che scritti scientifici, dei documenti trovati in archivio, il nostro collega pubblicò una lettera, sventuratamente gli avevano fornito solo una fotocopia. La fotocopia non era fatta molto bene, era un po' tagliata sui margini e quindi questo integrò, secondo la sua fantasia, quello che c'era scritto, facendo degli errori incredibili che lo squalificarono nel campo degli storici. Difatti per parecchi anni poi stette zitto e non pubblicò più niente. Questo per dirvi che i problemi metodologici sono importanti, bisogna sempre mantenere viva l'attenzione su questo. Il problema delle fonti. Nell'Ottocento molti storici, soprattutto tedeschi, cercarono di elaborare una serie di precisissime indicazioni sulle fonti, la gerarchia delle fonti, i diversi nomi delle fonti, tutte cose che poi lasciarono il tempo che trovarono. Da un certo punto di vista possiamo dire che tutto è fonte per la ricostruzione della storia. Il documento scritto, così come in tempi recenti la riproduzione cinematografica o televisiva, il reperto archeologico piuttosto che la lapide murata su un edificio, cioè tutto può essere fonte. Le stesse riproduzioni di quadri, cioè quadri che riproducono la vita in un determinato ambiente, pensate a qualche quadro del 600 olandese di interni di vita quotidiana. Ecco, tutto può essere fonte, tutto sta ad utilizzare la fonte nel modo corretto. Utilizzare la fonte nel modo corretto vuol dire innanzitutto collocare la fonte nel momento in cui la fonte è stata è nata. Naturalmente ci sono anche i falsi, questo è un altro discorso da fare, e anche qui i falsi si possono dividere tra i falsi fatti in un determinato periodo storico per lucrare sulla vendita di un pezzo antico, un documento del 600 fatto artificialmente oggi può essere venduto a qualche collezionista non particolarmente pratico di come si valutano i reperti antichi. Questo dal punto di vista della ricerca storica non ha un grande valore, mentre invece ci possono essere dei falsi contemporanei alla vicenda o successivi alla vicenda che invece possono essere utili per capire determinate cose. Pensate al famoso esempio che tutti citano, no? della falsa donazione di sutri da parte di Costantino, che sarebbe stata alla base della costruzione del potere temporale dei papi, dei possedimenti terreni dei papi, e che poi fu svelato come falso nel Rinascimento. Questa è una fonte, perché a questo punto occorre chiedersi perché quel determinato falso è stato costruito. E quindi anche questo ci può aiutare a ricostruire le cose. C'è un altro esempio che viene citato nelle lezioni di metodo storico di Chabot, che è un falso famoso, una lettera che sarebbe stata attribuita a Mazzini a proposito di un incontro tra l'Italia e la Prussia. Sono tutti elementi che sono documenti falsi, ma che hanno per la ricerca storica importanza perché ci aiutano a capire alcune cose. Pongono sempre la domanda: perché questo documento è stato falsificato? sicuramente lasciamo da parte un documento falso fatto per fare soldi di cui abbiamo, cioè, a cui abbiamo accennato prima. E, dicevo, bisogna collocare il documento nel suo contesto storico, ma soprattutto cercare di capire perché quel documento è stato scritto. Parlo del documento scritto, ma come capite vale per tutti i tipi di documenti, perché è stato scritto e perché è stato scritto in un certo modo. Se voi prendete certe lettere che De Gasperi scriveva a Pio XII e le considerate la espressione reale, veritiera del pensiero di De Gasperi in quel momento, commettereste un errore, perché il problema in quel momento per De Gasperi era quello di convincere il pontefice a comportarsi in un certo modo, doveva cioè cercare di convincere il pontefice, quindi la Chiesa cattolica, a fare o non fare determinate cose. Quindi doveva presentare le cose, come dire, mettendosi quasi dal punto di vista del suo interlocutore, per fare un ragionamento che il suo interlocutore avrebbe potuto accettare. Quindi ci sono espressioni in cui si sottolinea soprattutto il valore religioso di certe scelte, ma sarebbe un errore attribuire tutto questo discorso al pensiero di De Gasperi, perché abbiamo poi altre fonti, lettere scritte ad altri, testimonianze, le lettere che mandava alla figlia che si era fatta suora, con cui aveva un notevole scambio di corrispondenza, da cui risulta un quadro diverso da quello che può apparire da queste lettere. Quindi tutte le fonti devono essere interpretate con accuratezza. Ci possono essere delle lettere, degli scritti che hanno un grado di attendibilità maggiore o minore a seconda dello scopo. Se voi prendete per esempio dei rapporti dei prefetti al Ministero degli Interni, vanno viste con molta cura, perché ovviamente chi scrive cercherà di mettersi in buona luce nei confronti del proprio interlocutore. Questo è l'argomento che riprenderanno i miei colleghi. Dovete capire perché le cose sono state scritte. Prendiamo per esempio un'altra fonte, il diario. Ci sono diari che risultano particolarmente attendibili perché sono diari scritti, come dire, per promemoria dell'autore e quindi con una forte dose di veridicità e di attendibilità. Ci sono dei diari che invece sono scritti avendo già in vista la futura pubblicazione. Prendete per esempio due esempi, i diari di Sonnino e i diari di Nenni. I diari di Sonnino sono diari che sono venuti alla luce qualche decennio fa, che Sonnino scriveva per propria utilizzazione personale, cioè per ricordarsi di certi avvenimenti. Soprattutto all'inizio ci sono anche riferimenti alla sua vita privata, ci sono le sue pene d'amore. Sonnino ha sempre avuto una vita sentimentale molto misteriosa. Ogni tanto compaiono dei nomi di signore, ma la cosa si ferma lì e nessuno ha mai pensato di andare oltre. No, c'è stata un'autrice che parlato del giovane Sonnino e dei suoi turbamenti d'amore, dei suoi litigi con Pareto, perché tutti e due amavano la stessa persona, però di là di questo non si è mai. Adesso aspetti perché si ispira a Berlusconi. Comunque, i diari di Sonnino di fatto non erano scritti per la pubblicazione, quindi hanno un notevole grado di attendibilità. Anche qui poi bisogna stare attenti, perché è ovvio che chi scrive tende sempre ad essere molto preciso e sul suo pensiero e, come dire, molto, molto attento a che il suo comportamento segua il processo logico, mentre è molto meno attento, molto meno sicuro nel riferire quello che dicono gli altri. Quando anche nei diari trovate delle frasi messe tra virgolette, non siete certo sicuri che quelle frasi siano state dette in quel modo, anche perché il diario viene sempre scritto con un po' di distanza, un po' di distanza dagli avvenimenti, può essere qualche ora, ma può essere qualche giorno, e quindi la memoria tende ad essere naturalmente selettiva. Poi ci sono appunto i diari, come nel caso di diari di Pietro Nenni, che si capisce benissimo che sono scritti avendo in vista la futura pubblicazione, per cui ci sono degli incredibili silenzi, delle incredibili reticenze su certi episodi che invece noi riterremmo naturale trovare all'interno di un diario. Questo non vuol dire che i diari di Nenni non siano attendibili, ma che vanno presi con una maggiore attenzione. Ugualmente avviene per i resoconti, bisogna sempre tenere conto di quando resoconti di un incontro, per esempio, sono stati scritti, perché se sono stati scritti all'indomani poche ore dall'incontro, riportano con molta precisione tutto quello che è stato detto. Se sono stati scritti a distanza di 2 o 3 giorni, il resoconto perde un po' della sua freschezza, perché molti particolari vengono persi proprio dalla memoria dell'autore. Ecco, io questo punto, per non togliere spazio alle cose molto più specifiche sul vostro laboratorio, mi fermo qui. Quello che volevo dire è che tutto è fonte della ricerca storica, tutto può essere utilizzato, fotografie, scritti, riprese televisive, testimonianze orali, tutto quello che volete. L'importante è che queste fonti vengano utilizzate con quella necessaria capacità di interpretazione che deve essere tipica dello storico, altrimenti si rischia di dare delle interpretazioni false, completamente false, di prendere per buone certe testimonianze che invece devono essere sottoposte ad una paziente opera di riconsiderazione. Quindi con questo viatico iniziale, non so chi di voi due inizia, allora diamo la parola al professor Andrea Sacco. Stereo. Quando giochiamo in argomenti come la strategia della tensione, il problema è ancora più complicato di come ha introdotto il professor Canavera, nel senso che ci sono argomenti della storia sui quali abbiamo, come dire, delle basi storiografiche già consolidate che ci possono aiutare a raccogliere con ragionevole sicurezza le informazioni che ci servono poi per porre alle fonti, ai documenti, le giuste domande affinché ci restituiscano le risposte più feconde possibili per la nostra ricerca. Invece, nel caso di un argomento, e consideratelo ogni volta che lo cito sempre fra virgolette, fra poco vi spiego perché, la strategia della tensione fra virgolette, e qui invece il problema è che nell'interrogare le fonti noi non abbiamo una storiografia consolidata. Anzi, io direi, e non credo che mi si possa smentire, che nulla di propriamente denominabile storiografia esiste su questo tema. Esiste una variegata pubblicistica, per lo più realizzata da storici non di mestiere, giornalisti o indagatori dilettanti. Questo non significa che alcuni testi non siano buoni, ma non sono storiografia, cioè non utilizzano il metodo proprio dello storico. Spiegarvi cos'è questo metodo sarebbe parecchio lungo. Dovreste in teoria già averlo imparato seguendo i corsi di laurea, le lezioni dei corsi di laurea in scienze storiche. È che lo storico dovrebbe imparare, facendo il suo mestiere, a maneggiare le fonti con molta maggiore abilità e competenza di quanto lo facciano quelli che credono che appunto è sufficiente raccattare quattro documenti, imbastirli un po', inventarsi anche a volte in maniera fantasiosa dei collegamenti laddove non ci sono, e poi viene fuori il progresso. È il guaio della storia, che è una scienza umana e quindi apparentemente comprensibile a qualsiasi essere umano, e invece il metodo, se correttamente applicato, è infinitamente più rigoroso di come noi lo vediamo restituito in molti libri pseudo-storici. Quindi, non esiste una storiografia sulla strategia della tensione, ripeto sempre fra virgolette, fra poco vi spiego perché. Se volete un esempio concreto, se qui stessimo facendo un laboratorio, un seminario, un ciclo di incontri sulle origini della prima guerra mondiale, e uno non è sicuro di aver capito tutto bene, o non ha seguito tutti gli incontri, o comunque volesse qualcosa di solido, concreto, ma che però non implicasse la lettura dei milioni di testi, tra libri, saggi, contributi vari che sono stati pubblicati sul tema delle origini della prima guerra mondiale, qualsiasi storico che conosca questo argomento può indicare tranquillamente un libro di partenza che è una sintesi perfettamente affidabile, ed è James Joyce, Le origini della prima guerra mondiale, la terza pari in Roma Pari 1982, non ricordo la data. Tenete presente comunque che esistono milioni, non è stata la casa che c'erano milioni di testi sulle origini della prima guerra mondiale. È uno dei temi più indagati della storia contemporanea, o a cavallo tra il moderno e il contemporaneo. Bene, sulla strategia della tensione, ma anche se invece che strategia della tensione, tra virgolette, possiamo chiamarlo gli anni della violenza politica in Italia, i punti oscuri della storia dell'Italia repubblicana, o l'Italia nella crisi degli anni 70, sono migliaia di etichette, già il fatto che non si sia trovata una formulazione unanimemente condivisa dalla comunità degli storici per inquadrare quei fenomeni di violenza politica che hanno caratterizzato l'Italia tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 80, la dice lunga, ma comunque la si voglia chiamare, non esiste un testo storiografico di riferimento. Nessuno storico ancora ha intrapreso il lungo viaggio di scrivere una sintesi complessiva, scientificamente affidabile. Certamente perché è molto complicato, a mio parere è molto complicato, perché le stesse fonti da un lato sono enormemente abbondanti, in termini meramente quantitativi, soltanto le carte processuali relative alle varie inchieste e processi sulla strage di Piazza Fontana assommano a oltre un milione di pagine, che non le trovate nella libreria sotto casa, e neanche alla biblioteca del Dipartimento di Scienze della Storia e della Documentazione Storica. Chi ha la pazienza di leggersi oltre un milione di pagine scritte per di più nel tipico linguaggio dei giuristi? E ho detto apposta le carte, perché poi ci sarebbero i corpi di reato, l'ulteriore documentazione allegata, ma gran parte dei corpi di reato sono semplicemente per via. Altrimenti gli uffici, i corpi di reato dei vari palazzi di giustizia non avrebbero spazio per farci stare. Quando una sentenza è definitiva, passata in giudicato, i corpi di reato che sono serviti per condurre i processi in genere vengono buttati via. Qualcuno ci deve aver trovato qualcuno su qualche banchetto di sgattiere, ma questi sono altri discorsi. Quindi soltanto di carte oltre un milione di pagine. E le carte processuali, se qualcuno si... In teoria forse potrei parlare anche a voce senza voce, perché in genere ho una voce abbastanza, mi sentite abbastanza bene anche là in fondo, quindi se qualcuno ha letto anche soltanto le motivazioni di una qualsiasi sentenza si sarà accorto del particolare tipo di linguaggio che usano i giudici. È il linguaggio giuridico, l'ha spiegato molto bene l'avvocato Sincato, lo scopo con cui vengono scritte le sentenze, più in generale con cui vengono condotti i processi, anche le inchieste dei giudici istruttori che poi portano ai processi, non sono i criteri dello storico. Per cui su quell'oltre milioni di pagine, ma anche soltanto sulle 844 pagine che trovate della sentenza di primo grado, la trovate su internet, completa, sul sito di Magistratura Democratica. La sentenza di primo grado generata dall'inchiesta del giudice Guido Salvini, emessa il 30 giugno del 2001, quella che condannava l'ergastolo, Belfo Zorzi, Carlo Maria Maggi, Giancarlo Rognoni e gli altri per la strage di Piazza Fontana, ben sono 844 pagine. Ma di quelle 844 pagine che possa essere utile allo storico, forse ci sono 10 pagine, ma non 10 pagine che uno guarda l'indice e dice l'intervallo di 10 pagine. C'è l'informazione a pagina 1, un'altra a pagina 464, un'altra magari a pagina 844. Quindi solo leggendosela tutta. E dopo questa enorme fatica lo storico scopre che magari gli sono rimaste in mano una serie di informazioni utili, utilissime, però magari a volte uno dice, nel tempo che ho speso a leggermi 844 pagine di sentenza di Piazza Fontana, mi leggevo le origini della prima guerra mondiale ed ero molto più soddisfatto. A volte è frustrante, voglio dire, avere a che fare con queste fonti. Non è come il diario di Sonnino o i carteggi di Giolitti. Spesso queste fonti, per lo storico che ha anche un allenamento perverso su altri periodi storici, sono estremamente frustranti, abbondanti, sovrabbondanti in termini quantitativi, spesso frustranti a livello qualitativo, ma poi delle fonti essenziali, e questa è l'altra faccia della medaglia, mancano, anzi abbiamo la frustrantissima certezza che non le avremo mai, tutte quelle fonti, tutta quella documentazione che è stata originata, è stata partorita dai vari servizi di informazione e sicurezza del pianeta Terra negli ultimi 60 anni. La documentazione sulla organizzazione italiana Stay Behind, volgarmente conosciuta come CLAG, sappiamo per certo che è stata in gran parte distrutta nel momento stesso in cui veniva resa pubblica l'esistenza di questa organizzazione, nel novembre del 1990, per stessa ammissione dei dirigenti del sismi di allora. Per cui figuriamoci quale altra documentazione secret o top secret sulla guerra fredda è stata distrutta. Per cui dobbiamo rassegnarci al fatto che alcune cose non le sapremo mai. Ma non è autorizzato lo storico a riempire le cose che non potrà mai sapere con delle mere illazioni o congetture, come capita di leggere molto spesso nella pubblicistica dedicata a questi temi. Questo non significa che lo storico debba esimersi dal cercare di dare una risposta, solo che queste risposte non devono essere postulate con ragionamenti più o meno astratti, devono essere cercate all'interno della stessa storia, devono essere cercate all'interno delle fonti che noi effettivamente possediamo, cercando di evitare di essere netti, troppo apolitici, ma è la storia che spiega la storia e non è una frase effetto. Nel senso che tutte le idee di uno storico derivano dalla storia. Il passato illumina il presente illumina il passato. Oggi in realtà ne sappiamo molto di più sulla strage di Piazza Fontana di quanto ne sapessimo 40 anni fa. Come dicevo nel mio brevissimo intervento impulsorio, quando c'è stato Giovanni Lanza, Luciano Lanza. Guarda che il promotore, quindi mi sembra. Per uno storico, come dire, tutto sommato, quello che sappiamo sulla strage di Piazza Fontana è non pienamente soddisfacente, ma certamente ci permette di capire meglio qualche cosa di quel periodo. Certo, se a voi interessa sapere il nome, cognome, faccia, anche a me piacerebbe tantissimo, di chi materialmente ha posato con la borsa di Similpelle sotto il tavolo ottagonale del Salone Centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura il 12 dicembre del 1969, forse non lo sapremo mai, possiamo pensare che sia uno dei nomi che sono venuti fuori dalle varie inchieste. Però, come dicevo, come ribadisco, se uno ha la pazienza di studiarsi le sentenze, ma non solo quelle, di leggersi le fonti che abbiamo, le fonti di stampa, per esempio questa è la prima pagina dell'Unità del 13 dicembre, che è una fonte molto orientata ovviamente, se si studia la stampa di partito, bisogna conoscere il partito che l'ha generato. Non si può ricostruire la storia dell'Italia contemporanea con le prime pagine dell'Unità, perché avremo un certo tipo di storia. Però è una fonte che non possiamo escludere. Però se noi usiamo la stampa dobbiamo usare sia l'Unità che il Popolo, che il Secolo d'Italia, l'organo del Movimento Sociale Italiano e i grandi organi di informazione, naturalmente. Solo dal confronto con tutti quanti che forse possiamo intravedere un quadro un po' meno nebuloso. Ma comunque la stampa periodica non è che una, è una sola delle tante fonti che si possono utilizzare. Dicevo, i colpevoli veri non li sapremo mai, ma se vogliamo capire quel periodo di tensione, senza dubbio, io credo appunto che 40 anni di indagini giudiziarie, giornalistiche, di riflessione politologica, soltanto chi è profondamente in malafede o profondamente ignorante può negare che non sia chiaro. È chiaro qual è l'area politica, l'ambiente politico che ha generato le bombe del 1969. E tutto sommato è abbastanza chiaro anche perché, anche se mancano naturalmente i collegamenti con eventuali livelli superiori. Questo aprirebbe un'altra enorme parentesi, perché è chiaro che non ci sarà mai il documento firmato da Rumor o da Restivo. Rumor era il Presidente del Consiglio, Restivo il Ministro degli Interni nel 1969, Mariano Rumor e Franco Restivo. Non è mai il documento firmato da loro che ordina ai servizi segreti di creare una serie di attentati per creare tensione, per favorire che cosa? Colpo di Stato? Un'involuzione autoritaria? Non l'avremo mai. Ma se devo dire, se noi mettiamo ancora una volta insieme tutto quello che conosciamo, ed è faticosissimo, se cioè a queste cose aggiungiamo appunto, se agli atti processuali aggiungiamo la stampa, se alla stampa aggiungiamo i carteggi che esistono, la memorialisti, i diari insomma non sono così sinceri come quelli di Sondrino, forse ancora meno sinceri di quelli di Nenni, ma comunque i documenti diplomatici, perché no? Non è che lo scenario internazionale sia da escludere. I documenti desecretati dalla CIA, qua per esempio ne ho uno, ma perderemo troppo tempo se dovessi tradurvelo. E insomma, quello che esiste non è che va escluso. È chiaro che una documentazione palese su fatti così gravi, tragici e oscuri non può dire delle verità inconfessabili, ma non è che è esclusa dalla storia, non è che la documentazione palese ci impedisce di crearci un quadro di avvenimenti. Il particolare è collegato al generale, e il generale in qualche modo illumina anche il particolare. Semmai, ripeto, per questi temi resta incredibilmente frustrante per chi è abituato a lavorare su altri periodi storici, che ci sono dei momenti in cui non deve arrendersi. Effettivamente ci sono delle zone oscure che allo stato attuale tali sembrano rimanere per lo storico, perché lo storico le spiegazioni le cerca, non le postula. Questa è una delle tante cose che forse distingue lo storico da altri studiosi apparentemente similari, come quando ci si occupa di storia molto contemporanea, sì, è facile che lo storico si confonda col politologo o col sociologo o con l'antropologo. Invece io personalmente, ma credo che molti storici possono essere d'accordo con me, io rivendico la peculiarità del lavoro dello storico. Non dico che sia meglio di tutti gli altri studiosi, ma il suo lavoro è diverso. È giusto che si lasci contaminare da certe risultanze scientifiche, rendono più ricco il lavoro dello storico. Ma lo storico è un artigiano che parte dal particolare e poi risale al generale, non viceversa. Strategia della tensione, dicevo, non c'è assolutamente unanimità da parte degli storici che questa sia una categoria interpretativa o euristica di un qualche valore. Che ci siano stati gruppi che hanno pensato una strategia di atti politici che creando tensione nel paese, paura nell'opinione pubblica o in certi settori dell'opinione pubblica, potesse appunto preludere a un colpo di Stato di destra o a una semplice involuzione autoritaria, beh sì, voglio dire, a partire dal convegno all'Hotel Parco dei Principi, però che questa sia una categoria interpretativa valida per l'intera storia di questi fenomeni tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 80 è perlomeno azzardato affermare. Uno. E che la stessa strategia della tensione in qualche modo si sia realizzata, una strategia come una strategia napoleonica, una strategia militare, d'altronde il termine è militare, beh, implica un piano. Che il piano ci fosse, sì, sarebbe idiota negarlo. Che il piano si sia realizzato, francamente, è ancora sub iudice. Non sto dicendo che non è vero, ma è sub iudice. In genere nella pubblicistica trovate moltissimi che ritengono che tutto questo casino, tutti questi morti, queste bombe, sia e tutti gli attentati sia da destra che da sinistra siano stati realizzati esclusivamente per lasciare la Democrazia Cristiana lì ferma immobile al centro dello schieramento politico. Diciamo che forse lo si poteva realizzare tranquillamente con molta meno fatica, secondo me. Che poi sono anche documenti che stanno venendo fuori o affermazioni che sono state fatte in un punto di morte, che poi anche un po' cinicamente la direzione della Democrazia Cristiana abbia approfittato della teoria degli opposti estremismi appunto per rafforzare la sua posizione al centro, vabbè, ma non bisogna confondere le cause con le conseguenze. Quindi, e anche se avrei molto altro da dire, concludo qui, se no non resta abbastanza spazio. Su un tema come questo, su temi come questi, purtroppo, malgrado molti siano vecchi anche più di 40 anni, insomma, parlando di Gladio, le altre formazioni paramilitari occulte, segrete, che hanno contraddistinto la storia d'Italia negli anni della Guerra Fredda, e risaliamo quindi fino al giorno dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale in Italia. E su questi argomenti, purtroppo, in realtà la storiografia è ancora l'infanzia. E l'infanzia della storiografia è la ricostruzione degli eventi. Siamo ancora fermi a quella che sprezzantemente gli storici delle annali chiamavano storia evidenziale. Ma loro potevano sì disprezzare le genealogie dei re di Francia, perché ora negli anni 20, della fine degli anni 20 del Novecento, la storia medievale francese è stata rivoltata in tutti i modi. Quindi o si inventavano davvero genialmente un nuovo modo di fare storia, o era finita lì. Qui no. Qui ancora noi troviamo delle bufale, delle balle spacciate come realtà quando, se si ha la pazienza enorme di andare a vedere le fonti, alcuni paletti, alcuni punti fermi in realtà ci sono. Però siamo ancora fermi allo stadio dell'infanzia. Dobbiamo ancora ricostruire ciò che è, diciamo, verosimilmente accaduto, perché di certezze, volendo, non ce ne sono mai. E quindi, prima di arrivare a una compiuta riflessione storiografica, penso che di fatica dovremmo farne ancora molta e di strada la percorso che è ancora lunga. Allora, io sono parzialmente d'accordo con Andrea Sacco, ma in che senso? Nel senso che è vero che non esiste un canone storiografico sulla strategia della tensione. Esiste un canone storiografico sulla resistenza o sulla guerra civile spagnola o sulla rivoluzione francese, ma sulla strategia della tensione no. È però anche vero che non esiste un canone storiografico sulla storia della Prima Repubblica, sulla storia più recente. Un po' perché appunto è più recente, un po' perché c'è un certo ritardo degli storici, adesso non indaghiamo perché, la disponibilità di documenti eccetera eccetera, per cui gli ultimi 60 anni di storia a livello nazionale e internazionale sono ancora un campo largamente inesplorato. Questo però non significa che non ci siano singole opere anche di valore storiografico su questo periodo e anche sulla strategia della tensione. Penso per esempio a un libro, non parliamo solo di pubblicistica italiana, penso a un libro come quello fatto qualche anno fa da Anna Centobull in Inghilterra, appunto sulla strategia della tensione in Italia. Però penso per esempio, siamo proprio nel pieno della storiografia scientifica, diciamo, accademica se preferite, ma penso per esempio anche ad altri autori come Chiarini o come Corsini o come Franco Ferraresi, che hanno prodotto in epoche diverse dei testi che tuttora voi potreste utilizzare tranquillamente come base. Un canone non si forma mai intorno a un solo libro, ci vuole un certo periodo di elaborazione, perché contributi che vanno in questa direzione ci sono. Io personalmente ho cercato di farlo nei tre libri che ho dedicato all'argomento, applicando quello che avevo imparato sul metodo storico in questi anni, non so con quali risultati, lascio giudicare gli altri. Per la realtà con non grandissima attenzione da parte dei colleghi, però insomma io ho tentato di farlo. Posso quindi dirvi, non in generale cosa andrebbe fatto, che sarebbe una cosa assolutamente presuntuosa, posso dirvi la mia esperienza, come ho cercato di far quadrare i conti. A me è capitato, diciamo, un'occasione molto particolare per uno storico. Primo, ho visto questo periodo di storia attraverso un'angolatura non molto nata dagli storici in generale, che è quella dei fascicoli giudiziari. Il nostro storico, come voi che siete qui, si forma in facoltà di lettere prevalentemente e quindi non ha alcuna cognizione di diritto penale, soprattutto di procedura penale. Quindi nella consultazione del fascicolo giudiziario non si trova a suo agio, non è una fonte a cui è abituato, perché già il distinguere fra vecchio e nuovo rito processuale, la figura del giudice istruttore e il GIP attuale, il ruolo del pubblico ministero nel vecchio e nel nuovo processo e comunque nel processo la distinzione tra la magistratura inquirente e per esempio il giudice per le indagini preliminari e così via, obbliga a una certa conoscenza proprio del codice di procedura che normalmente non c'è. Quindi questo mi ha obbligato anche in qualche modo a misurarmi con una fonte insolita. In secondo luogo, siccome l'ho fatto per conto prima di commissione parlamentare d'inchiesta, poi di autorità giudiziarie, ho avuto la possibilità di mettere le mani su archivi che normalmente sono sottratti alla consultazione dello storico. Anche perché i magistrati che mi avevano dato il mandato procedevano per reati di strage, che sono reati nei quali non è opponibile il segreto di Stato. Non dico che gli uffici, gli enti che io ho visitato siano sempre stati del tutto collaborativi, ecco, diciamo così, però grosso modo, un po' di roba ho potuto vederla. E qui ha ragione Salco Manzo una cosa, ho visto una quantità sterminata di carte per tentare di tirar fuori un po' di succo e insomma quei 250.000 faldoni li sono visti fra una cosa e l'altra, fascicoli attorno a un faldone. E probabilmente sì, siamo intorno al 1,5 milioni, 2 milioni di pagine, è durata 15 anni questa storia, quindi non è una cosa, diciamo, fatta in poco tempo. Ovviamente ho consultato le fonti diaristiche, da pubblicistiche, giornali, eccetera. È vero, c'è un sovraccarico di fonti a certi livelli e contemporaneamente c'è scarsità di altre fonti che vengono sottratte o attraverso la presentazione o attraverso la distruzione. Quindi lo storico contemporaneo condivide con tutti i suoi predecessori il problema della scarsità delle fonti, perché per qualsiasi storico che si occupi di qualsiasi periodo i documenti non sono mai abbastanza rispetto a quello che vorrebbe sapere. Però in più lo storico contemporaneo ha un rischio diverso, quello di annegare nelle sue fonti, perché si trova fonti molto più numerose e molto più, per certi versi, differenziate. E qui non abbiamo, noi veniamo da una storiografia che aveva come fonte principe, ovviamente non parlo della storiografia premoderna, la storiografia moderna, quella su cui si basa l'ermeneutica delle fonti di Droysen, per intenderci, grande libro che vi consiglio di leggere e di studiare ancora, l'istorica di Droysen, è ancora una cosa estremamente formativa. Però non sempre le cose formative sono anche attuali, sono anche immediatamente applicabili. Noi veniamo appunto da quel tipo di storiografia che conosce essenzialmente il documento scritto come documento principe, se non diciamo la verità, esclusivo. Sì, è vero che anche una lapide o un monumento possono darti informazioni, sono una fonte, però quante informazioni ci cai? Poi magari la storia di un documento, di un monumento interessante, e il professor Caranero ha fatto appunto la storia del monumento a Napoleone III a Parco Sempione, che è una cosa tra l'altro anche divertente da leggere, spassosa per il tipo di dibattito che c'è stato. Però se voi andate lì, va bene che c'è la lapide con i nomi di tutti i tagliuti francesi, eccetera, però tante informazioni poi non ce le parate, insomma, cioè non è che... Quindi la nostra storiografia è essenzialmente storiografia scritta. E il Novecento ci propone una marea di fonti: la fotografia, il filmato, la registrazione audio, non solo, ma anche il documento scritto. Non è più il documento scritto che avevamo prima. Il file non è la stessa cosa del manoscritto o del dattilo scritto. Perché sai, pensiamo a come uno storico di fronte al documento fa tre operazioni. Un lavoro di autenticazione, in primo luogo. Un lavoro di verifica delle informazioni contenute e un lavoro di interpretazione. Alla fine queste sono le tre fasi. Mi trovo una lettera di pugno di Sonnino, un diario di pugno di Sonnino, diciamo, è relativamente facile appurare se è autentica o no, perché, vabbè, normali esami grafologici, magari se lo storico non è lui ad avere competenze grafologiche si rivolgerà a un grafologo nel caso di un documento sospetto. Lo storico non verifica, attenzione, lo storico non verifica ogni documento che trova, non fa il lavoro di autenticazione di ogni documento. Nella maggior parte dei casi, in base alla critica della provenienza, decide se il documento è attendibile o meno. Solo quando il documento presenti delle incongruenze o sia incerto nella sua provenienza o abbia un contrasto troppo forte rispetto a quello che noi già sappiamo essere vero, allora sorge un problema e si fanno analisi di autenticazione del documento stesso. Però normalmente no. Solo che in passato lo storico, vabbè, se la cavava con ancora il documento dattilo scritto, che già è un po' più avaro di informazioni, un po' più tignoso da esaminare, anche perché poi alla fine la stessa macchina a scrivere possono usarla persone diverse. Non è detto che sia quello che l'ha firmato il documento. Però almeno possiamo stabilire da quale macchina a scrivere viene. Voi siete sicuri che sia altrettanto facile farlo per un file? Sì, certo, il file ha una sua data di, in cui è stato fatto e in cui è stato modificato, però qualsiasi buon tecnico sarebbe in grado di creare un falso del quale il povero storico non sarebbe probabilmente in grado di accorgersi immediatamente. E pensate ancora di più alla fotografia. Già la fotografia è un documento che pone una serie di problemi, però... Ma sai, fino a quando si trattava del fotomontaggio nella fotografia degli anni 30, lo prendevi il fotomontaggio. Vi voglio adesso a analizzare una foto fatta in digitale e trattata al computer. Sì, certo, evidentemente un'analisi di pixel, sì, ci riesci. Per me, che i pixel sono tendenzialmente dei detersivi che si usano per la lavatrice, la cosa mi crea qualche problema. Non parliamo di filmati. Quindi, intanto abbiamo a che fare con il documento di fonte tecnica, che è una cosa che il povero Drosen, poveretto, quello non ce l'aveva, insomma, quindi... Tanto per cominciare abbiamo un documento proprio di natura radicalmente diversa, anche del documento scritto. Non solo, ma abbiamo un documento piuttosto piccioso da trattare dal punto di vista della lettura. Non c'è documento più ingannevole del documento fotografico. E in questo io misuro, registro il ritardo culturale che abbiamo con i disciplini. Se voi pensate che non c'è servizio segreto al mondo che non abbia un ufficio apposito, intanto per l'autenticazione delle foto, soprattutto per la fotointerpretazione, perché guardate che voi la foto, vabbè, d'accordo, se c'è Berlusconi che stringe la mano a Yeltsin, tutti quanti dicono non c'è bisogno di Elia Scaglia, tutti riconosciamo Berlusconi che dà la mano a Yeltsin, morta là, e sì, ho un cachet, d'accordo. E ma se troviamo una foto qualsiasi di un signore in compagnia di altri signori in un posto che non conosciamo, scattata in un giorno che non sappiamo qual è e non capiamo che stanno facendo. Cos'è quello, un documento? È il documento più muto del mondo. Perché se non hai indicazioni che ti dicono chi sono quei signori, che stanno facendo, quando e dove, quel documento è inservibile. Allora, i servizi segreti hanno uffici di fotointerpretazione. Voi trovatemi un solo corso di fotointerpretazione in tutta l'università italiana. E non vi dico poi il documento audio che uno dice, oh che bello, lo sento e c'è tutta la narrativa. Neanche per sogno, proprio nel processo di Piazza Fontana, mi sono accorto di che documento spinoso è. Non solo perché siamo arrivati al delirio di un documento complicatissimo, perché uno degli imputati, che è di città diversa, ammetteva nell'intercettazione di trovarsi a Milano il 12 dicembre del 69, quindi non era un'ammissione da poco. Bene, il guaio qual è? Che era accesa la televisione e quindi c'era un rumore di fondo. A un certo punto la difesa inizierà a sostenere, no, ma quella frase non la dice il mio assistito, la dice, è una frase che si sovrappone della TV, quindi si capisce male, perché in realtà le voci sono coperte. Ah sì, no, si fa la perizia. Il collegio dei periti, composto anche da periti di parte, conclude con la seguente decisione. Se no, veramente noi non siamo in grado di sciogliere il quesito, anche perché abbiamo notato un fenomeno strano. Se la registrazione l'ascoltiamo al mattino, la frase si sente. Se l'ascoltiamo la sera, la frase non si sente. Dite voi, cioè, un documento del genere, come lo tratto? Soprattutto, a che ora lo devo sentire? Cioè, è un problema serio. Ma poi, pensate, se Andrea Saccoman e io ci telefoniamo, io dico, senti, a proposito, domani vediamo Martino per quella faccenda. E dove ci vediamo? Magari al solito posto, dove si fanno gli incontri. Per noi è tutto chiaro, Martina e lui, il solito posto è questo e l'incontro è questo seminario. Ma chi ci sta sentendo? Martino chi è? Il solito posto qual è? E soprattutto perché vi dovete vedere? Cosa dovete fare? Di cose del genere ne abbiamo valanghe di documenti, perché in realtà la registrazione, c'è un mito, quello per il quale i servizi segreti sanno tutto intercettando tutto. Allora sappiate che i servizi segreti possono intercettare qualsiasi cosa ormai con i sistemi satellitari, dalla telefonata che fate sul telefonino alla mail che spedite e soprattutto a Facebook che vi piace tanto, vi divertite, è tutto regolarmente registrato e conservato presso i server, perché problemi di stoccaggio dell'informazione non ce ne sono più. Non hai più il fascicolo da tenere, nemmeno la registrazione, la bobina del nastro. No, ormai in pochissimo spazio immagazzini miliardi di dati. E tramite un uso accorto di parole chiave, di cose, eccetera, eccetera, in qualche modo si può sempre ripescare. Quindi, teoricamente, qualcuno che ha mandato una mail un po' spinta alla fidanzata sappia che in ogni momento gli può essere rinfacciata. Quindi, soprattutto se la fidanzata non era quella ufficiale, ma era quella ufficiosa. Detto questo, però, attenzione, perché il più delle volte quello è un documento inutilizzabile. Per esperienza vi posso dire che a un certo punto vado al rostro dei carabinieri, che era la squadra di polizia giudiziaria che lavorava col magistrato per il quale lavoravo anch'io, e vedo che il capitano apre il cassetto, che c'era zeppo di nastri di registrazione, cassette. Dico, scusa, che ci fai? Dice, no, sai, sono le cassette che dobbiamo sviluppare. Sviluppare significa appunto questo. Martino chi è? Allora devi fare delle indagini per sapere Martino chi è. Dove si sono visti? Fai le indagini per vedere dove si sono visti. Cosa si faceva in via Borgognona presso la Casa della Cultura? Ah, si stavano facendo, cioè... E qua succede esattamente la cosa che più lamentavano. Fai un lavoro enorme per trovarti l'uno per mille delle notizie utili, eh? Cioè fai... E infatti il mio amico capitano mi diceva, ci guarda, non riusciremo a farlo mai, perché ciascuna di queste cassette richiederebbe una squadra di 8-9 persone per 3-4 giorni per essere sviluppata. Quindi questo significa che io non avrò mai tanti uomini per sviluppare tutta questa roba. Quindi sì, è tutto intercettato, però attenzione, perché poi la reale utilizzabilità, che non sia lo standard a fini sessuali, quella è la cosa più semplice che ho imparato a fare, ma se non si tratta appunto di operazioni di questo genere, guardate che vi trovate di fronte a un documento che è complicatissimo da utilizzare, non parliamo poi di problemi linguistici, di disturbi, di rumori di fondo. Bene, queste sono le fonti del Novecento. Allora, l'ermeneutica delle fonti su cui voi vi state formando in larga parte vi darà una buona impostazione mentale, ma non vi darà ausili tecnici, non vi darà le nozioni necessarie a trattare questo genere di fonti, sapete? E questo è uno degli aspetti. Poi c'è un altro aspetto più generale. Ma come si selezionano le fonti? Proprio perché tu c'hai questa valanga di roba. A un certo punto non puoi vedere tutto. Io ricordo un mio amico che fece una tesi importante sugli anniversari della storia d'Italia e cominciò con slancio cerciosino a vedere tutta la stampa, tutte le circolari, tutte le cose. Risultato, scrisse un tomo di 400 pagine per analizzare 4 anni. Se avesse dovuto sviluppare tutto il periodo repubblicano, fece i conti, avrebbe dovuto scrivere un'opera di 6.000 pagine, che naturalmente nessuno avrebbe, una cosa altamente punitiva tendenzialmente. Ora, anche questo è un discorso che dobbiamo farci. Noi siamo abituati, siamo estremi eredi di una concezione dell'erudito del Settecento, che è quello che vive di rendita, non ha un accidente da fare dalla mattina alla sera e può dedicare tutto il tempo che vuole ai suoi quesiti di natura culturale. Non è più così. Ormai bisogna ragionare in termini economici. Non si può più scrivere un libro con l'ottica del... Martino Berengo ha fatto un'opera assolutamente straordinaria, che è La storia delle città, libro fondamentale, bellissimo, leggetelo. Ci ha messo tutta la vita, credo. Beh, ha scritto molte altre cose nel frattempo. Brodel ha scritto La storia della Mediterranea all'epoca di Filippo II, benissimo, ci ha messo una vita. Però, attenzione, ed è bene che ci siano e che si continui a cercare di fare opere del genere, però attenzione, non ogni libro è la storia del Mediterraneo all'epoca di Filippo II, e non ogni libro può assorbire i 30 anni di vita di uno storico, che poi sono grosso modo il grosso della durata di vita attiva di un intellettuale. Non andiamo molto molto al di là di questo, tolto il periodo iniziale giovanile, tolto il periodo del rimbambimento, che rimane poi effettivamente non molto di là, 40 anni, 50, meno che non hai la fortuna di essere uno come Bobbio che ha continuato a scrivere sul letto di morte, vabbè, ho capito, però non è normalmente così. Allora, non tutte le opere meritano questo tempo e non tutte le opere meritano questi soldi, perché fare ricerca, ragazzi, costa soldi. dal viaggio presso un archivio, alla fotocopia, all'acquisto del libro, all'intervista se dovete farla, sono tutte cose che costano. Allora, Brodel può essersi permesso il lusso di fare la storia del Mediterraneo e all'interno della storia del Mediterraneo fare un altro libro interno che quello sulla battaglia di Lepanto? Beh, bella. Sì, però Brodel c'era dietro la fondazione Rockefeller che gli aveva dato qualcosa come 2 milioni di dollari degli anni 60, che erano soldi, proprio tanti, io credo, tutti e tre messi insieme, non abbia mai visto in tutta la vita qualcosa di paragonabile a quella somma per le nostre città, cioè quando nasce, vabbè. Massimo, non fai che mettiamo fuori l'organetto con la cosa del passato, ci pagano le fotocopie, insomma, cioè questo è... Allora, siccome non sempre avrete a disposizione la fondazione Rockefeller, anzi più delle volte non succede, voi dovrete studiare dicendo: io ho a disposizione x lire e x ore di tempo per fare questo lavoro. Mettetevelo in testa. Quindi dovrete ragionare in termini economici. Non siete eruditi del Settecento. L'attività di ricerca scientifica, anche nelle materie umane, è un'attività di ordine economico. Punto. Detto questo, significa una cosa. Significa che devi imparare a scegliere le fonti. Devi imparare a fare dei tarotaggi. Non si può vedere tutto, ragazzi. Non è così. E non si può analizzare tutto, perché se io avessi voluto analizzare, ho proposto, già il capitano dei carabinieri mi odiava, perché ogni volta che andavo dicevo: guarda, devo trovare questo documento, me lo sviluppi, perché me lo sviluppi significa becca il testimone, interrogalo, vedi l'interessato che è citato qui, se ne sa, non ne sa, e così via, no? E siccome lo facevo con una certa frequenza, ormai gli leggevo l'odio negli occhi, cioè proprio ogni volta che entravo lo vedevo che mi scrutava con aria piuttosto ostile. Devo dire in questo, permettetemi una cosa autobiografica, io ero molto divertito dalla cosa. Essendo stato alla vostra età un assiduo macciatore per la libertà di Valpreda e la riapertura dell'inchiesta sulla morte di Pinelli, mai avrei potuto immaginare che avrei indagato su quelle cose quando sfilavo per la città gridando Valpreda innocente della strage di Stato. Mai avrei potuto immaginare che avrei indagato su quei casi avendo a disposizione una squadra di carabinieri e di poliziotti per fare fotocopie, cosa della quale mi valevo punitivamente, cioè proprio era una cosa. Quindi questo in qualche modo era fatto anche con una certa vena santa. Tant'è che una volta mi guardate, se mi fanno un attentato, non andate troppo in giro, è quello delle fotocopie. Beh, poveretto, gli ho fatto fare qualcosa come 300.000 fotocopie. Un giorno venne il direttore della Polizia Prevenzione e disse: sono io, potreste fare delle ricerche un po' più mirate, perché è la terza fotocopiatrice che fondiamo. Allora, voi capite, una fotocopiatrice 100.000 copie ti fa, mica di più. Ora, siccome le cose stanno così e non sempre puoi divertirti a obbligare una squadra di poliziotti a farti le fotocopie, devi scegliere. Già se vai all'archivio di Stato, dove l'archivista, che tendenzialmente l'archivista è un deviato sessuale con pulsioni sadiche, perché se può non darti un fascicolo è tutto contento, e quindi e te li dà due alla volta, obbligandoti a fare delle file lunghissime, e non li puoi fotocopiare, e se li devi fotocopiare in ginocchio, questa è la regola degli archivisti, per questo. Allora tu devi scegliere che cosa devi vedere, e soprattutto cosa devi fotocopiare, perché tra l'altro negli archivi le fotocopie costano un accidente. E allora come si fa? E allora bisogna imparare a campionare il materiale. Voglio fare un esempio, nella lettera che mi manda, fa un esempio di come c'è un depistaggio a proposito di una famosa visita in Italia nella quale si diceva, la strage di Stato riporta la notizia che l'interprete era il commissario Luigi Calabresi. In realtà si scopre poi che non era Luigi Calabresi ma era altro funzionario di pubblica sicurezza e che era un depistaggio messo in giro per accreditare l'idea che Calabresi fosse uomo della CIA. Andrea si è fatto tutta una ricerca, ha scoperto che non solo che c'erano tutta una serie di fonti e che soprattutto il generale che veniva in Italia non era il generale Walker, che all'epoca era già un personaggio fuori del giro, eccetera, bensì, e molto più significativamente, Vernon Walter, che era l'ex capo stazione CIA a Roma. Bene, era stato un titolo militare a Roma. Sì, vabbè, ma era stato anche il generale della CIA. Sì, esatto. Militare sempre. E dice, ha avuto anche un incontro con, guarda caso, qui ho trovato sui memoriali, viene fuori che ho avuto un incontro con Aloia e con Andreotti, notizia su quello che succede. Poi conclude dicendo, sì, vabbè, ho fatto tutto il suo lavoro, eccetera, e vabbè, ma poi questo a che cosa mi porta? Dice, descrivere queste verifiche ha richiesto molto più tempo che effettuarle. Quelle quattro righe sono un esempio di disinformazione, quel che rimane una volta di messe le cose a posto, ammesso che sia vero, non ha poi nulla di particolarmente interessante o rivelatore. Tra l'altro lui becca questa cosa dal pessimo libro di Pucchiarelli su Piazza Fontana, che peraltro... Sareste a colpo di un posto. Mette Antonio Calabrese. No, ma è appunto, perché in realtà copia il mio libro, se ti è sfuggito, Bomba di Chiostro. E copia. E dico che è Luigi, cioè lì tutto l'equivoco. Esatto. Quello lì è uno stava della figura. Tutto l'equivoco dipende dal fatto che non si chiama Antonio, ma Lorenzo Calabrese. Allora, se tu trovi scritta L puntato Calabrese. Ci sta il fatto che tu dici, beh, l'iniziale L è stato Luigi Calabrese, un errore di battitura, sulla finale è Calabresi. Quindi in realtà il buon Pucchiarelli ha copiato e ha copiato pure male in questo caso. Perché lui sostiene, Antonio Calabrese era uno dei maggiori che faceva parte del famoso gruppo della divisione Pastrego, sì. Eccetera. Sì, che però, sì, che però è un'altra persona, perché è un carabiniere e non è un poliziotto, vabbè, questo sì, li passa. Ma poi diventa ancora più arbitrario, abbia avuto, cioè paradossalmente esatto. Ha una sua logica che Lorenzo Calabrese possa, esatto, ma no, che Antonio Calabrese, cioè, qui sono i pasticci. Dice Saccoman, dice, vedi, io dovevo fare tutta questa fatica, però poi alla fine che mi è rimasto in mano. Allora, io devo confessare una cosa, che la notizia era fosse che era Vernon Walters e non Walker il visitatore, a me era sfuggito perché non ho fatto questo, però è sfuggita per una ragione semplicissima, perché non l'ho nemmeno cercata, e non l'ho cercata perché nell'economia del mio discorso quel particolare era assolutamente ininfluente. Io mi stavo occupando della morte di Calabresi, del depistaggio che era stato fatto su Calabresi, che era già una linea collaterale rispetto alla mia analisi sulla strage di Piazza Fontana. Quindi eravamo già a un collaterale. Non ho ulteriormente esteso a un collaterale del collaterale, perché oltretutto il libro era già 500 pagine, oltre avrei rischiato il linciaggio da parte. Avrei rischiato il linciaggio da parte della casa editrice. Ecco, allora il problema, iniziamo dalla fine. Come si scelgono le fonti? Come si campionano? Io ho risolto il problema in questi termini. Ho fatto un passo indietro. Negli anni 30 ci fu un dibattito in Italia sul se gli storici avessero dovuto applicare i canoni della logica formale o meno alla loro ricerca. Si concluse, anche grazie all'intervento di Benedetto Croce, che di solito è una delle ragioni dei disastri culturali di questo paese, si concluse che no, allo storico basta la logica naturale. E fu un grave danno, perché in realtà, se voi vi provate a strutturare la vostra ricerca formalizzando la serie di quesiti, per cui la scrivete come se fosse una formula logica, voi capirete che già quello vi orienta sulla ricerca del documento, quale documento, dove, perché devi rispondere a quel che sia, a quel passaggio del ragionamento. Non è una narrazione gratuita in cui raccogli qualsiasi notizia ti capiti a tiro, qualsiasi ulteriore informazione, no. Devi raccogliere le informazioni che sono strettamente necessarie alla costruzione della tua ricerca. tu hai costruito una serie di quesiti, vuoi sapere come è andata Piazza Fontana, perché l'hanno fatta, eccetera, eccetera, alla fine vuoi sapere cosa ha sedimentato. Alla fine la storia, ragazzi, è sempre solo la spiegazione del presente. Per remota che sia, noi la prendiamo in considerazione perché ci spieghi il punto in cui siamo arrivati e ci orienti nella ricerca del futuro. E questo. Se questo di volta in volta hai dei quesiti, non vai cercando farfalle sotto l'arco di Tito, vai cercando risposte precise ed è quello che ti guida. Naturalmente questo poi significa anche lavorare in una diversa ermeneutica delle fonti, sia per quanto riguarda la loro ricerca, sia per quanto riguarda il loro trattamento, sia per quanto riguarda la loro interpretazione. Questo è ovvio e bisogna fare questo. A me piace il fatto che sia capitato questa occasione perché mi dà la possibilità di dire che probabilmente noi come storici contemporanei siamo arrivati al punto in cui dobbiamo avviare una riflessione su come rifondare completamente il nostro approccio epistemologico. Droysen e Chabot restano molto importanti, formativi e non vanno dimenticati. Vedete, di Croce non vi ho parlato molto bene, di Droysen e di Chabot sì. Però ovviamente ogni epoca ha un suo passaggio e ha bisogno di metodi propri per essere studiato. Soprattutto, finisco con questo pensiero, il Novecento. Il Novecento è il secolo più malettamente complesso e difficile da leggere e da spiegare a noi stessi. Se io dicessi questo limitandomi a dire che ogni epoca successiva è più complessa delle precedenti, direi una merita banalità. Non è solo questo, è che il Novecento ha avuto una crescita esponenziale di complessità, è diventato tutto enormemente più veloce, molto più veloce della nostra capacità di elaborare categorie teoriche che spieghino quello che sta accadendo. E allora se continueremo ad avere questo ritardo come storici nella elaborazione di una metodologia ad hoc, noi non riusciremo a spiegare il Novecento e soprattutto accumuleremo un ritardo catastrofico. Una delle ragioni che fa della storiografia italiana una storiografia che in passato ha avuto una centralità in Europa e nel mondo, perché all'epoca essere centrale in Europa significava essere centrale nel mondo, e oggi non è più questo, è invece una produzione largamente emarginata, probabilmente sta in questo, sta anche nella necessità di rivedere degli assi culturali. Da noi è passato completamente sotto traccia un dibattito teorico che ha investito essenzialmente le scienze matematiche, fisiche e naturali, che è iniziato col principio di relatività con Einstein e proseguito con Heisenberg col principio di indeterminazione, quindi con il teorema di indimostrabilità di Gödel, per approdare al dibattito sulla complessità e ai contributi di Prigogine. Tutto questo, mettiamocelo in testa, non è più qualcosa che ha avuto un ruolo solo sulle scienze matematiche, fisiche e naturali, ha cambiato anche la cultura, ha avuto degli effetti che vanno molto oltre l'ambito disciplinare in cui sono nate. Il nostro vecchio asse che separa nettamente le scienze umane dalle scienze matematiche, fisiche e naturali non regge più. Senza, ad esempio, un approccio alle scienze cognitive, alla logica, la neurobiologia, eccetera, molte cose ci risaranno incomprensibili. E allora, se apriamo un dibattito sulla riforma dell'università, e io spero che un giorno, oltre che della governance, si discuta della didattica, parliamo anche di questo, parliamo anche di quanto è indietro l'asse culturale della nostra didattica e di cosa è necessario fare per attrezzare non lo storico dell'Ottocento, ma lo storico del 2000 che riflette sul Novecento. Domande, dubbi, perplessità? Novecento, mille. citando quanto diceva il professor Sacco precedentemente, se la strategia non è realizzabile dal punto di vista storiografico, come si può insegnarla? No, non ho detto che non è, ho detto che non è. Non è comprensibile all'interno della categoria. Ho detto che non è una categoria o una accettata. Accettata per descrivere il fenomeno. Ma se dovessi descrivere il fenomeno, c'è una categoria accettata, come faccio a interpretare la spiegazione della storia? Lo scopo della storia, uno degli scopi è capire un'epoca per poi fare quello che diceva giustamente Aldo. Io cerco di capire il passato perché mi faccia capire meglio il presente e mi consenta di progettare, costruire e immaginare un futuro. Tra gli storici la categoria strategia della tensione non è riconosciuta, tant'è che una serie di storici che personalmente non apprezzo, restano storici accademici. Anzi, fece scalpore un articolo che Ernesto Galli della Loggia pubblicò sul Corriere della Sera nell'agosto del 2000, forse qualche parte l'ha parlato, giusto, mi sembra il 28 agosto, il cui titolo era Strategia senza tensione. No, ma, tensione senza. Pardon, la tensione senza strategia, sì, se no il gioco di parole. La tensione senza strategia, in cui negava addirittura che ci sia stata una strategia della tensione. Quello che io intendevo dire è che l'espressione strategia della tensione non spiega, non è sufficiente a spiegare l'insieme dei fenomeni eversivi che ci sono stati in Italia, specialmente tra il 1969 e il 1974. Questo quinquennio, secondo me, ha una sua rilevanza particolare, può darsi che in futuro finisca per essere una periodizzazione dotata di senso, per il momento è solo un'ipotesi di lavoro. Quello che io intendevo dire è che non è accettata come categoria esplicativa da una certa parte degli storici, e anche se io non sono d'accordo con gli storici che la negano, anch'io dico che la strategia della tensione non è sufficiente per inquadrare quei fenomeni. Sicuramente per il 69 sì, sicuramente, anche usare questi verbi a me pare eccessiva sicumera. Diciamo che quello che è lo stato attuale delle nostre conoscenze ci può permettere di dire che certi gruppi, certi pezzi della politica extraparlamentare di destra, dei servizi segreti, delle forze armate, con delle sponde in alcuni partiti politici, anche parlamentari, il Movimento Sociale Italiano, ma non tutto, ma sicuramente in parte, erano sicuramente preoccupati, soprattutto dopo quello che era successo nel 68 con la contestazione studentesca, nel 69 con l'ultimo cambio, e sono andato a vedere l'ultima pagina dei giornali lungo tutto il 69, anche dell'unità, quindi non di un giornale di destra, effettivamente c'è la sensazione di una crescente effervescenza studentesca, operaia, giovanile in genere, che ha portato qualcuno a fare sì il piano della strategia della tensione, che però poi questa strategia della tensione si sia realizzata, non sto dicendo che non sia realizzata, bisogna indagare per vedere quale fosse il vero scopo, così com'è, sembra abbastanza nebuloso. A me no, secondo me volevo davvero fare il colpo di Stato. Però poi a questo punto resta da spiegare perché il colpo di Stato non sarà fatto. Laddove i colpi di Stato che si è voluti fare, sono stati fatti. E ribadisco, l'interpretazione che trovate in diversa pubblicistica, che tutto questo avesse come scopo di tenere la Democrazia Cristiana lì dove si trovava, francamente è visibile, ma è visibile non di per sé nella logica. Se voi, come con un bisturi, segate via solo esclusivamente niente altro che quello che ci parla dei fatti delittuosi, delle indagini, delle ripercussioni, forse potete arrivare, combinando vari elementi, a costruire questa e mille altre interpretazioni. È che quei fatti sono ficcati nel loro tempo, non sono al di fuori del loro tempo. Gli esseri umani, le persone che hanno agito, erano esseri umani figli del loro tempo, anche quando volevano distruggerlo col loro tempo. dissolverlo, disintegrarlo, per usare l'espressione di Franco Freddo, del suo famoso professore, la disintegrazione del sistema. E ripeto, che queste persone avessero quel disegno, ci sono state, certo, che questo disegno si sia realizzato, boh, forse non ce ne accorgiamo, forse viviamo in una realtà virtuale tipo Matrix, il film, forse noi stiamo appunto immaginando quello che ci accade, e tutto, come dice l'induismo e il buddismo, è Maya, mera apparenza, tutta la realtà sensibile è mera apparenza, ma guarda che a cavolo studiamo storia. E mentre la storia è una disciplina occidentale, questo vorrei, nulla di simile alla storiografia scientifica è stata elaborata negli stessi tempi da altre culture. I letteratori cinesi fin dal VI secolo a.C. avevano le cronache che freddamente e asetticamente elencavano che cosa era accaduto, punto, senza interpretazione, senza ermeneutica, senza... La storiografia è una disciplina dell'Europa occidentale, che ci piace oppure no, e quindi ne porta, si porta dietro le categorie, e anche nel rifondario sono d'accordissimo con Aldo, è necessario ripensare lo stesso statuto epistemico della nostra disciplina. Oggi, nel 2000, ma faremo sempre con categorie occidentali, perché altrimenti dovremmo fregarci, andiamo a studiare altro, andiamo a studiare le filosofie occidentali. Quindi, se noi partiamo dal presupposto che una certa realtà documentata sia effettivamente accaduta, così come accade la realtà che noi oggi, adesso, qui e ora, sentiamo, e allora, scusate questi arzigogoli, allora, se la storia complessiva di quel periodo ci illustra un certo modo di agire, di pensare e di essere, è vero che sono esistite queste persone che avevano in mente questo tipo di processo eversivo, che questo si sia realizzato o che questo sia stato messo in atto esclusivamente per tenere il potere vicino, mi spiace, non perché ci sia un documento. Non è il culto del documento che deve dirmi che è stato restivo ordinare di mettere la bomba a un morto e che un morto sapeva, non è questo. È che se semplicemente, invece che sugli stereotipi degli anni 60 e 70, si studiassero i partiti politici dell'epoca, per documenti all'epoca segreti che sono venuti fuori, tipo i verbali delle riunioni dei vari comitati centrali e delle direzioni, per esempio, ci si rende conto che non poteva essere per questo, non perché c'è un documento che me lo smentisce o che me lo conferma, perché la storia stessa, la dinamica degli eventi, e se volete anche la conoscenza delle persone, non perché sono andato lì, buongiorno signor Restivo, buongiorno signor Romuar, no, ero troppo piccolo. La storia non può prescindere da un minimo di comprensione di come pensano, agiscono e sentono gli esseri umani, perché chi ci piace o no, la storia riguarda gli esseri umani. Non so se sono stato chiaro. È il discorso che la categoria, la strategia della tensione, non è una categoria storiografica. Noi vogliamo capire che cosa è successo in Italia, non lo so un giorno che etichetta ci troveranno, ma la nostra strategia della tensione. È chiaro che sono due cose diverse. Un conto è che qualcuno abbia immaginato, scusi, l'età napoleonica, la chiama strategia, manovra tattica per linee interne, o manovra sulle derrie, o manovra sulle retrovie, la chiama così la storia dell'età napoleonica, la chiama l'età napoleonica, o in generale la strategia napoleonica. La manovra sulle retrovie o la manovra per linee interne è un modo in cui Napoleone vinceva le sue battaglie. Fa parte, ma non spiega. Sono stato chiaro adesso. La strategia della tensione è esistita, fa parte, ma non spiega. Non spiega, non è una categoria né onnicomprensiva né di vasto respiro cronologico o storiografico. Strategia della tensione non è la spiegazione dei misteri d'Italia. Come insegnarla? Come insegnarla? Secondo me, quello che ho detto, incominciando a dire quello che si sa, incominciando a raccontarlo, perché per certi punti è possibilissimo farlo, fornendo le basi. Andrea, mi consenti, non sono molto d'accordo. Lo so che non è d'accordo. No, ma non sono d'accordo per ragioni completamente diverse da quelle che immagino. Io sarei rispondendo un secondo e poi sarei, se non abbiamo troppo tempo. raccoglierei un po' di domande in gruppo e farei rispondere. Però farei rispondere perché prima. No, va bene. Prima raccogli le domande e poi. Prego. No, no, no. Parlavamo prima della difficoltà degli storici contemporaneismo, che sono legate spesso ai punti, legate alla qualità di questo movimento, che spesso sono un tipo parlato anche della storia. Però io ricordo che anni fa, quando abbiamo fatto l'esame di attività della guerra, non è stato grande di dibattito sullo storico contemporaneismo, che lui non è stato toccato. Cioè, quando la storia è praticamente troppo vicina, bisogna ricostruirlo, comunque bisogna costruire uno schema di fatti che abbia un senso poi per l'avvenire, spesso non tiene quest'opera, quindi anche la divulgazione storica da parte dello storico, è considerata diciamo anche pericolosa. Infatti si faceva un po' il discorso anche di questa sala del servizio e si faceva proprio il discorso di quanto lo storico possa influire sull'opinione altrui e per cui il suo lavoro può essere in un certo senso guidato, indirizzato, incoronato in un'altra parte. A voi questa cosa risulta? Siccome nell'ultima risposta ho avuto fuori la centralità dell'essere umano, e ricordare che i soggetti della storia sono esseri umani, mi rendo conto che appunto, credo sia le fonti a quello che conta la genericità, che adesso noi abbiamo il gossip, ovvero sia la storia raccontata alle masse che parla delle caratteristiche dei re, delle loro abitudini, delle loro particolarità, mentre non vuole mostrare un comando. Mi domandavo però se per pensare a una rifondazione con nuove categorie della storia per il futuro, se si potesse riconsiderare non il gossip, ma alcune caratteristiche psicologiche condivise degli esseri umani, per cui accentuare lo specifico del personaggio, ma il rapporto psicologico che gli esseri umani hanno con il potere costituzionale, al fatto che di fronte a certi fatti, a certi meccanismi, gli esseri umani possono essere vigliacchi, possono avere paura, o possono essere dei servi volontari, eccetera. Se queste grandi categorie non personalizzate, tipiche degli esseri umani, se possono essere considerate, diciamo, delle fonti storiche, ovvero sia degli aiuti per inquadrare il territorio. Io concordo, diciamo, in parte con quello che diceva Marco Magno nel secondo intervento, cioè la categoria di strategia della tensione non è una categoria onnicomprensiva, va tolta inquadrata in un contesto più ampio. E diciamo, provo a formulare un'ipotesi. Domanda, perché abbiamo poco tempo. La domanda è non riflessione. La domanda è sulla validità di queste cose. Cioè se la strategia della tensione possa, inquadrata in un contesto più ampio di quello della guerra fredda, essere considerata una delle articolazioni con le quali nel nostro paese si è messa in atto la guerra fredda, che a sua volta è parte di uno scontro più ampio che è durato tutto il Novecento tra le grandi forze di progresso sociale e politico e le forze di conservazione sociale e politica che si sono scontrate senza esclusione di tutto. Sì, c'è una cosa che si è molto mutata, perdonatemi, perché in realtà la vostra... No, adesso no, perché non c'è più tempo. Se volete ne parliamo dopo, o se no, scusate il narcisismo, io da 7 anni che ne insegno di COP, è un po' difficile dirlo in 3 parole e in maniera astratta. Secondo me l'insegnamento è che la storia è un'arte pratica, ma questo è un altro discorso. Scusate se ho equivocato, perché sulla faccenda avete capito che sono abbastanza sensibile. Quindi la domanda secondo me è importante, ma ovviamente adesso... Non c'è più tempo per rispondere, ma se volete dopo ne parliamo. Allora, sì. L'ultima domanda ha preceduto una delle cose che volevo dire. Certo, strategia della tensione non... Se voi sfogliate un vocabolario, vedete che strategia della tensione ha due accezioni. Per, se non vado errato, se non scampi i due vocabolari, per lo Zanichelli la strategia della tensione indica un periodo storico. Grosso modo gli anni 60-70, o qualcuno dice i 5 anni che vanno da Piazza Fontana a Brescia. Per il De Mauro invece è una tecnica, una tattica, un modo di operare. In realtà tutte e due le definizioni sono sbagliate. Se ci pensate, come tecnica non ha senso. Strategia della tensione, che significa che la tensione è utilizzata, questo è il senso, no? Per creare uno stato d'allarme che giustifichi il colpo di stato. Ma allora non dovremmo parlare di strategia della tensione, dovremmo parlare di tattica della tensione finalizzata alla strategia del colpo di stato. Quindi non ha senso detta in questi termini. Come periodo storico sono d'accordo anche io, non ha molto senso, anche perché io non sono d'accordo con Andrea, perché la strategia della tensione non la riferisco solo al contesto italiano. Secondo me la strategia della tensione, assumiamola un momento in astratto, indica una fenomenologia particolare del periodo della guerra fredda. All'interno della guerra fredda si produce a un certo punto una spaccatura del gruppo dirigente occidentale, per il quale da un lato c'è la politica della distensione che viene avviata dall'amministrazione Kennedy sostanzialmente, e dall'altro come reazione c'è la strategia di tensione, che se ci fate caso è esattamente l'esatto rovesciamento semantico della politica della distensione. Cioè si riuniscono una serie di settori del gruppo dirigente politico-militare dell'Ottocento, del gruppo dirigente occidentale, che non credono nella politica di distensione e rilanciano la politica del rollback. Adesso lasciamo perdere, perché sennò devo dire troppe cose. Queste cose possono già emerse. Infatti sono già emerse. Infatti. Quindi, chi ha letto la dispensa lo sa. Quindi, vabbè, mi sembrava il caso di doverlo rinfrescare. Quindi in questo senso, no, se usiamo la strategia di tensione come espressione periodizzante, no, non funziona. Se lo usiamo invece come fenomenologia del periodo della guerra fredda, ha un senso. La centralità è dunque un momento, il discorso del come si incanalano gli storici, cioè, ma questo è il mestiere che da sempre fa il potere politico, che è quello di, attraverso l'accesso agli archivi, la toponomastica, la celebrazione, la fissazione dei programmi di insegnamento, i finanziamenti alla ricerca, sono tutti strumenti attraverso cui qualsiasi potere politico cerca di far scorrere il fiume della ricerca storica in una direzione piuttosto che un'altra. Fa parte delle regole del gioco, non mi merito. Centralità dell'essere umano è fondatezza in termini scientifici delle categorie psicologiche applicate ai livelli di massa. È certo che va fatta questa operazione. Se tieni presente, Fabrizio, che uno degli aspetti classici del Novecento è lo sviluppo della psicologia, e della psicologia non più come scienza individuale ma come scienza di massa, e che gli sviluppi della psicologia rivoluzionano il mercato, la politica e la guerra. Il mercato attraverso la pubblicità, la politica attraverso la propaganda, la guerra attraverso la guerra psicologica. Quindi sono tutte cose che operano essenzialmente su reazioni psicologiche di massa. E in questo senso, puoi condividerlo o non condividerlo, gli studi di Pavlov e di Chakotin, per esempio, sono un pezzo di storia del Novecento che non puoi ignorare. Per cui, benissimo, sono completamente d'accordo, sottoscrivo. Basta, perché la terza domanda era in realtà di assorbito dalla prima, quindi mi fermo qua. Dunque, intanto un'osservazione che ha fatto da lui prima, che è estremamente fondata, perché oggi lo storico in genere viene dal percorso letterario o addirittura dalle facoltà di storia che sono all'interno della facoltà di lettere e filosofia. Io personalmente sono laureato in scienze politiche, quando la facoltà di scienze politiche era ancora ben diversa da quella di adesso, dove la preparazione avveniva proprio tenendo conto di tutte queste cose che non state dette. Noi facevamo esami di diritto civile, di diritto penale, di statistica, di storia delle dottrine politiche, di economia. Cioè, alla fine gli esami storici che esistevano pure erano una parte, perché c'era tutto un insieme di altre materie che poi servivano allo storico. Naturalmente servivano allo storico come poteva poi servire a tutti gli altri che uscivano da queste facoltà facendo professioni diverse. Io faccio per cui Italo Gitti, che è stato uno dei protagonisti del Tribunale di Milano, era mio compagno a scienze politiche, e lui ha fatto la carriera verso la magistratura. Ho un mio collega che è diventato professore di geografia, e c'era tutta una serie di possibilità. Io ho sempre trovato, ma tanto ai professori non viene mai chiesto niente, i programmi aprono dall'alto, ho sempre pensato che nelle facoltà di storia ci dovesse essere una robusta preparazione giuridica, una robusta preparazione anche economico, anche matematica, cioè di matematica pratica. Però queste cose non ce le chiedono, non le possiamo neanche dire. L'altra cosa, la sua osservazione. È vero e non è vero che chi parla di questioni vicine al suo tempo è più implicato e quindi tende ad essere epatante, perché ci sono litigi implicati tra studiosi di storia romana o di storia greca, cioè voglio dire, non è che di preistoria. Di preistoria. La civiltà cattolica fa una guerra furibonda nell'Ottocento con l'istruzione dei casi di preistoria. Quindi ci sono queste cose non derivano dalla vicinanza, derivano dal fatto che poi ci sono storici che si lasciano guidare dalla loro formazione, diciamo, ideale o ideologica, e altri che invece cercano di tenerla distinta o quantomeno la dichiarano. C'è una, io lo ricordo sempre ai miei studenti, ci sono due o tre pagine bellissime all'inizio della storia dell'idea dell'Europa di Chabot, in cui Chabot distingue tra il momento soggettivo e il momento oggettivo della ricerca storica. Il momento soggettivo è il momento della scelta dell'argomento. Dice, qui lo storico deve farsi guidare dal fatto di essere uomo del suo tempo, che va a cercare nel passato delle risposte alla vita del suo tempo. Quindi deve essere infiammato dalla passione, e allora sceglie un argomento piuttosto che un altro a seconda della sua passione anche politica. Poi subentra l'aspetto oggettivo, in cui lo storico deve cercare di spogliarsi completamente da quello che può, da tutti questi condizionamenti ideologici, politici, religiosi, patriottici, eccetera, eccetera, per cercare di dare, nei limiti del possibile, una visione oggettiva. Non sempre questo avviene, non sempre con un uguale grado, però questo è un po' il... Possiamo lasciare un messaggio di tolleranza ai nostri ragazzi? Ragazzi, ricordatevi che lo storico deve essere rispettoso delle idee altrui, deve essere rispettoso dei fatti, certamente, della verità storica, e quindi deve saper operare con l'opportuna delicatezza. Poi arriva il momento che si deve togliere la giacca, rimbaccare le camicie e fare le mani delle camicie e fare a cazzotti. E questo imparate che dovrete farlo. Tenete distinti due momenti, ma tenete presente che ci sono tutti e due. Allora, evitate di fare a cazzotti quando andate in archivio, quello no, non mi conviene. Anche perché poi l'archivista non collabora, sono anzi. Dunque, già stamattina abbiamo aperto un po' un vaso di Pandora enorme, che meriterebbe ulteriori approfondimenti, che però a me spetta l'ingrato compito di stoppare, perché come sempre dobbiamo concludere. Io prima di chiudere vi ricordo, se no poi scappate tutti, che la prossima e ultima lezione è giovedì, cioè dopo domani, non martedì prossimo, quindi ricordatevi che il laboratorio si conclude giovedì. Io vi chiedo davvero di ringraziare i nostri relatori di stamattina, che sono stati per le firme come sempre qui a fianco, e ci vediamo giovedì.